certamente la crescita dei paesi BRIC, ma soprattutto la travolgente crisi, la crescita in Cina sta facendo beneficiare moltissimo anche alcuni produttori europei, in particolare quelli tedeschi. Quindi direi che le spiegazioni sono tante, bisogna vedere i singoli operatori. Gli operatori tedeschi, tanto Volkswagen con Audi, tanto BMW, tanto Mercedes, stanno beneficiando del fatto che la classe affluente cinese pensa di acquisire prestigio avendo un'auto tedesca di queste riconosciute a livello internazionale. E questo ha favorito l'esportazione dei tedeschi e ha favorito il risultato di Volkswagen in una maniera incredibile. Dall'altra parte il mercato USA sta tirando molto, c'è una ripresa evidente e c'è un Buy American che è una ripresa dell'orgoglio nazionale, e il fatto che il cambio dollaro euro e dollaro yen avvantaggia i produttori nazionali rispetto a quelli che importavano, e quindi anche se sono produttori tedeschi o francesi o comunque giapponesi, i giapponesi sono particolarmente penalizzati, ma gli altri subiscono poi il fatto che, pur essendo di produzione americana, hanno moltissimi componenti che arrivano da fuori, per cui c'è una penalizzazione. L'Italia sta registrando il fatto che stanno ricominciando gli acquisti, gli ordinativi, per il fatto che ormai la gente si è convinta che non ci saranno più gli incentivi, e anche una certa ripresa di sensibilità ecologica porta al fatto di ordinare i modelli sostitutivi di quelli precedenti. Però il mercato da noi, sì, stenta a riprendersi, perché la domanda è molto più contenuta.